Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Se ricordate, nella precedente puntata abbiamo visto come Nikolai, ritornato a casa in licenza, è stato accolto da tutti con grandi dimostrazioni d'affetto. Il padre, la madre, la sorella Natasha e naturalmente Sonia, che evidentemente è innamorata di lui. E nel corso del pranzo che viene dato al club inglese organizzato dal vecchio conte Rostov, il padre di Nikolai, in onore del generale Bagration, Pierre, che è informato da una lettera anonima di una relazione tra sua moglie e Dolokhov, coglie un pretesto qualsiasi per sfidare questi a duello. E nel corso del duello Pierre ferisce gravemente Dolokhov. Negli ultimi tempi Pierre aveva veduto raramente sua moglie da solo a sola. Sia a Pietroburgo che a Mosca la loro casa era sempre piena di ospiti. Nella notte che seguì il duello, egli, come faceva spesso, non andò in camera da letto, ma rimase nell'immenso studio paterno, quello stesso dove era morto il conte Bezukhov. Si stesse sul divano e avrebbe voluto dormire per dimenticare tutto quel che gli era accaduto, ma non poteva. Una tale tempesta di sentimenti, di pensieri, di ricordi gli si era sollevata a un tratto nell'anima, che non soltanto non poteva dormire, ma non poteva stare fermo, e dovette saltar su dal divano e camminare per la stanza a passi rapidi. Ora gli appariva lei, come era nei primi tempi dopo il matrimonio, con le spalle scoperte e lo sguardo stanco e appassionato, e subito accanto a lei appariva il bel viso impudente, duro e beffardo di Dolokhov, come era al pranzo, e poi lo stesso viso di Dolokhov, pallido e tremante e sofferente, come era quando s'era voltato, cadendo sulla neve. «Che cosa è stato?» domandava a se stesso. «Io ho ucciso l'amante, sì, ho ucciso l'amante di mia moglie. Già, è stato così. Perché? Come sono giunto a questo?» «Perché l'hai sposata», rispondeva una voce interiore. «Ma che colpa ne ho io?» domandava. «Questa, che l'hai sposata senza amarla, che hai ingannato te stesso e lei», e gli si presentava al vivo il momento in cui, dopo la cena in casa del principe Vassili, aveva detto quelle parole «Je vous aime», che non gli potevano uscire di bocca. Tutto era venuto di lì. Pierre non poteva capire perché non l'amava. «Anzi, non l'ho amata mai», diceva a se stesso Pierre. «Sapevo che era una donna corrotta», si ripeteva, «ma non osavo confessarmelo». E ora Dolokhov, eccolo là, seduto sulla neve, che si sforza di sorridere e muore, forse. «Lei sola è colpevole di tutto», diceva. «E con questo? Perché mi sono legato a lei? Perché le ho detto quel «je vous aime», che era una bugia e anche peggio di una bugia», diceva fra sé. La notte chiamò il cameriere e gli ordinò di preparare le valigie per andare a Pietroburgo. Non si poteva figurare come avrebbe potuto parlare con lei e decise che l'indomani sarebbe partito e le avrebbe lasciato una lettera, dichiarandole la sua intenzione di allontanarsi per sempre da lei. La mattina, quando il cameriere portandogli il caffè entrò nel suo studio, Pierre era sdraiato sull'ottomana e con un libro aperto fra le mani dormiva. Si svegliò e a lungo si guardò intorno spaventato, senza riuscire a capire dove si trovasse. «La contessa mi ha ordinato di informarmi se Vostra Eccellenza era in casa», disse il cameriere. Pierre non ebbe il tempo di stabilire che cosa avrebbe risposto che la contessa medesima, in una vestaglia di raso bianco ricamata d'argento e a capo scoperto, entrò nella stanza, tranquilla e maestosa. Soltanto sulla sua marmorea fronte, un poco sporgente, c'era una piccola ruga di collera. Con la sua calma imperturbabile non parlò davanti al cameriere. Aspettò finché il cameriere ebbe posato il vassoio del caffè e fu uscito. Pierre la guardò, timidamente, attraverso gli occhiali, e come una lepre circondata dai cani, abbassando le orecchie e continua a stare sdraiata davanti ai suoi nemici, così anche lui si provò a seguitare la sua lettura, ma sentì che era una cosa assurda, impossibile, e le gettò di nuovo una timida occhiata. Lei non s'era messa a sedere e lo guardava con un sorriso di disprezzo, aspettando che il cameriere fosse uscito. «E questo che cos'è? Che cosa avete fatto?» disse severamente. «Ecco, l'uomo coraggioso. Su, rispondete. Che cos'è questo duello? Che cosa volete provare con questo? Che cosa? Ve lo domando!» Pierre si rivoltò pesantemente sul divano, aprì la bocca, ma non poté rispondere. «Se non rispondete voi, ve lo dirò io», seguitò Hélène. «Voi credete tutto ciò che vi si dice. Vi hanno detto?» Ed Hélène rise. «Che Dolokhov è il mio amante», disse in francese, con la sua brutale precisione di vocaboli, pronunciando la parola «amante» come pronunziava qualsiasi altra parola. «E l'avete creduto. Ma che avete provato con questo duello? Che siete uno stupido, che vous êtes un sot. Ma questo tutti lo sapevano. Quale sarà il risultato? Quello di farmi diventare lo zimbello di tutta Mosca, di far dire a tutti che, essendo ubriaco fuori di voi, avete provocato in duello un uomo del quale siete geloso senza fondamento». Sempre più Hélène alzava la voce e si riscaldava. «Un uomo che è migliore di voi sotto tutti i riguardi». «E perché avete potuto credere che fosse il mio amante? Perché? Perché mi piace la sua compagnia? Se voi foste più intelligente e più simpatico, preferirei la vostra». «Non mi parlate, ve ne supplico», mormorò Pierre con voce rauca. «Perché non debbo parlare? Io posso parlare, e oso dire che sono rare le mogli che abbiano un marito come voi e non si prendano degli amanti. E io non l'ho fatto», disse. Pierre voleva dire qualcosa, la guardò con occhi strani di cui ella non capì l'espressione e si sdraiò di nuovo. In quel momento soffriva fisicamente. Il suo petto era oppresso, non poteva respirare. Sapeva che avrebbe dovuto fare qualcosa per far cessare quella sofferenza, ma quello che avrebbe voluto fare era troppo terribile. «È meglio separarci», proferì con voce rotta. «Separarci, sia pure, ma soltanto se mi darete un patrimonio», disse Hélène. «Separarci, con questo mi volete spaventare». Pierre saltò su dal divano e, barcollando, si slanciò verso di lei. «Io ti ammazzo», urlò. E afferrato il piano di marmo della tavola, con una forza che era ancora ignota a lui stesso, mosse un passo verso di lei e fece l'atto di scaraventarglielo addosso. Il viso di Hélène divenne terreo. Ella mandò un grido e balzò indietro. La razza del padre s'era rivelata in lui. Pierre sentì l'attrazione e la voluttà del furore. Gettò via la lastra, che si ruppe, e avvicinandosi a lei con le braccia aperte, si mise a gridare «Fuori!» con una voce così terribile che per tutta la casa si sentì con terrore quel grido. Dio sa che cosa avrebbe fatto Pierre in quel momento, se Hélène non fosse fuggita dalla stanza. Dopo una settimana, Pierre consegnò alla moglie una procura per amministrare tutti i suoi beni della Grande Russia, che formavano più di metà della sua fortuna, e partì da solo per Pietroburgo. E Alisia Gori, frattanto, la tenuta di campagna del vecchio principe Balkonski, il padre di Andrei, dove vivono ancora la sorella Maria e Lisa, la giovane moglie incinta di Andrei, giunge la notizia che questi è disperso, forse ferito, forse morto, nella battaglia di Austerlitz. E il vecchio principe incarica la figlia di dare la notizia a Lisa, ma essa non ne ha il coraggio. La mattina del 19 marzo Lisa comincia ad accusare le doglie del parto. Era una di quelle notti di marzo nelle quali l'inverno sembra voler riprendere il suo dominio e rovescia con ira furiosa le sue ultime nevi e le sue ultime bufere. Incontro al dottore tedesco che si aspettava da Mosca da un momento all'altro e per il quale erano stati mandati sulla strada maestra dei cavalli freschi, ora furono spediti al bivio della strada vicinale degli uomini a cavallo con le lanterne per guidarlo fra le buche e le pozzanghere. La principessina Maria stava seduta in silenzio, fissando gli occhi radiosi sul viso grinzoso della balia, che ella conosceva fin nei minimi particolari, su di una ciocca di capelli grigi che uscivano di sotto il fazzoletto, sulla borsa che la pelle le faceva sotto il mento. A un tratto un colpo di vento investì una finestra dalla quale era stato tolto uno dei vetri doppi. Per ordine del principe si toglieva un vetro in ogni stanza all'arrivo delle allodole. Aprì la spagnoletta malchiusa, gonfiò le tendine di seta e, facendo entrare l'odor della neve ed il freddo, spense la candela. La principessina Maria trasalì. La nutrice, posata la calza, andò verso la finestra e, sporgendosi, riafferrò l'imposta che s'era spalancata. Il vento freddo faceva svolazzare le punte del suo fazzoletto e le ciocche di capelli grigi che ne uscivano. «Principessina, madre mia, qualcuno viene per il viale», disse, tenendo l'imposta senza chiuderla. «Con le lanterne, deve essere il dottore». «Ah, Dio mio, sia lodato Dio», disse la principessina Maria. «Bisogna andargli incontro, non sai il russo». La principessina Maria si gettò addosso uno scialle e corse incontro a quelli che giungevano. Quando passava per l'anticamera, dalla finestra vide una carrozza e delle lanterne davanti alla porta. Uscì sulle scale. Sul pilastrino della balaustrata c'era una candela di sego che il vento faceva colare. Il domestico Philippe, con un viso spaventato e un'altra candela in mano, stava più in basso, sul primo pianerottolo della scala. Ancora più giù, alla voltata, si udivano per le scale dei passi che si avvicinavano, di una persona calzata da inverno, e una voce che alla principessina Maria parve di conoscere diceva qualcosa. «Dio sia lodato», disse la voce. «E il babbo è andato a dormire», rispose la voce del maggiordomo Demian, che era già sotto. Poi la prima voce disse ancora qualche cosa. Demian rispose e i passi degli stivali da inverno si avvicinarono più rapidamente per la svolta invisibile della scala. «È Andrei», pensò la principessina Maria. «No, no, non può essere. Sarebbe una cosa troppo straordinaria». E nel momento che pensava questo, sul pianerottolo dove stava il domestico con la candela, comparvero il viso e la persona del principe Andrei, in pelliccia, col bavero alzato, tutto cosparso di neve. Sì, era proprio lui, ma pallido e magro, con un'espressione cambiata, singolarmente raddolcita ma ansiosa. Egli salì ancora e abbracciò la sorella. «Non avete ricevuto la mia lettera?» domandò, e senza aspettare la risposta, che in ogni modo non avrebbe avuta perché la principessina non poteva parlare, si voltò e con l'ostetrico che gli veniva dietro, a rapidi passi, salì ancora più su, dopo avere di nuovo abbracciato la sorella. «Che combinazione!» disse. «Mascia cara!» e toltisi pelliccia e stivali, entrò nell'appartamento della principessa. La piccola principessa giaceva sui guanciali con una cuffia bianca. I dolori l'avevano lasciata allora allora. I capelli neri si inanellavano sulle sue guance infiammate e sudate. La piccola e bella boccuccia rossa, con l'abruzzo coperto di peluria nera, era aperta ed ella sorrideva gioiosamente. Il principe Andrei entrò nella stanza e si fermò davanti a lei, ai piedi del divano su cui ella giaceva. Gli occhi lucenti, che avevano uno sguardo infantile, pieno di paura e di agitazione, si fermarono su di lui senza cambiare espressione. «Io vi amo tutti. Non ho mai fatto male a nessuno. Perché soffro? Aiutatemi», diceva la sua espressione. Ella vedeva il marito, ma non capiva il significato della sua comparsa in quel momento. Il principe Andrei girò intorno al divano e la baciò in fronte. «Animuccia mia», disse, parola che non le aveva mai detta. «Dio è misericordioso». Ella lo guardò interrogativamente, con un'aria di infantile rimprovero. «Io aspettavo aiuto da te, e niente, niente, neppure tu», dicevano i suoi occhi. Ella non si meravigliava che egli fosse venuto, non aveva capito che era venuto. L'arrivo di lui non aveva nessuna relazione con le sue sofferenze e non le recava sollievo. Le doglie ricominciarono e Maria Bogdanovna consigliò al principe Andrei di uscire dalla stanza. L'ostetrico entrò. Il principe Andrei uscì e, incontrando la principessina Maria, le si avvicinò di nuovo e si misero a parlare a bassa voce, ma ad ogni momento il discorso si interrompeva. Aspettavano e tendevano l'orecchio. Una donna uscì dalla camera con un viso sgomento e si confuse vedendo il principe Andrei. Egli si coprì il viso con le mani e stette così alcuni minuti. Dalla porta venivano dei lamenti pietosi, animalescamente disperati. Il principe Andrei si alzò, andò verso la porta e volle aprirla, ma qualcuno teneva la porta. «Non si può, non si può», disse di là una voce spaventata. Egli si mise allora a passeggiare per la stanza. I gridi tacquero e passò ancora qualche secondo. A un tratto, un grido terribile, che non era suo. Ella non avrebbe potuto gridare così e che giò nella stanza accanto. Il principe Andrei corse alla porta. L'urlo cessò e si udì il vagito di un bambino. «Perché hanno portato di là un bambino?» pensò nel primo istante il principe Andrei. «Un bambino? Quale? Perché un bambino là? Oppure è nato il bambino?» Allora compresi a un tratto tutto il giocondo significato di quel vagito. Le lacrime lo soffocarono e, appoggiando i due gomiti sul davanzale, si mise a piangere fra i singulti, come piangono i bambini. La porta si aprì. Il dottore, con le maniche della camicia rovesciate, senza giubba, pallido e con la mascella tremante, uscì dalla camera. Il principe Andrei si rivolse a lui, ma il dottore lo guardò smarrito e, senza dire nemmeno una parola, passò oltre. Una donna uscì di corsa, ma vedendo il principe Andrei si fermò confusa sulla soglia. Egli entrò nella camera della moglie. Ella giaceva morta, nella medesima posizione in cui egli l'aveva veduta 5 minuti prima. E la medesima espressione, malgrado la fissità delle pupille e il pallore delle guance, era su quel grazioso visino di bimba, con l'Abruzzo coperto da una peluria nera. «Io vi amo tutti e non ho fatto male a nessuno, ma voi che mi avete fatto?» diceva il suo bel viso pietoso di morta. In un angolo della stanza, fra le mani bianche e tremanti di Maria Bogdanovna, grugnì e strillò una cosina rossa. Due ore dopo, il principe Andrei, a passi silenziosi, entrò nello studio del padre. Il vecchio già sapeva tutto, stava ritto accanto alla porta e, appena essa si aprì, con le sue mani di vecchio, dure come tenaglie, circondò in silenzio il collo del figlio e singhiozzò come un bambino. Dopo 3 giorni si fecero i funerali della piccola principessa e il principe Andrei salì i gradini del catafalco per dirle addio. Anche nella bara ella aveva lo stesso viso, benché gli occhi fossero chiusi. «Ah, che mi avete fatto!» esso diceva sempre. E il principe Andrei sentì che nella sua anima qualcosa s'era lacerato e che egli era colpevole di una colpa che non era in suo potere riparare né dimenticare. Non poteva piangere. Anche il vecchio venne e le baciò la manina di cera, posata tranquillamente sull'altra assai in alto. E il viso di lei gli disse: «Ah, che mi avete fatto! E perché?» E vedendo quel viso, il vecchio si voltò in là, corrucciato. E noi torniamo a seguire le vicende di Nikolaj Rostov, nominato aiutante di campo del generale governatore di Mosca. Nikolaj, in questo periodo, assiste Dolokhov nella convalescenza dalla ferita riportata in duello e, con questa vicinanza, si lega con lui di amicizia. In autunno la famiglia Rostov tornò a Mosca. Al principio dell'inverno tornò anche Denisov e si fermò dai Rostov. Questa prima parte dell'inverno del 1806 che Nikolaj passò a Mosca fu uno dei periodi più felici e lieti per lui e per tutta la sua famiglia. Nikolaj si tirò dietro in casa dei genitori molti giovani. Viera era una bella ragazza di 20 anni, Sonia una fanciulla di 16 anni con tutta la leggiadria d'un fiore appena sbocciato, Natascia a metà signorina e a metà bimba, ora infantilmente buffa, ora giovanilmente affascinante. In casa Rostov s'era formata a quel tempo una certa atmosfera speciale, satura di amore, come accade nelle case dove ci sono delle ragazze molto carine e molto giovani. Ogni giovanotto che andava in casa Rostov, guardando quei visi giovanili di fanciulle sensibili, sorridenti chissà che cosa, quell'andirivieni animato, ascoltando il cicaleccio sconnesso ma gentile per tutti, pronto a tutto, pieno di speranza, di quella gioventù femminile, ascoltando quella mescolanza di suoni, ora canto, ora musica, provava quello stesso senso di inclinazione all'amore e di attesa della felicità che provava la gioventù di casa Rostov. Ecco, ora, tra i giovani introdotti in casa da Nikolaj Rostov c'è anche Dolokhov, per il quale Natascia prova una viva antipatia, mentre invece gradisce la persona di Denisov. E Natascia si accorge invece presto che Dolokhov si è innamorato di Sonia. Dall'autunno del 1806 tutti presero di nuovo a parlare della guerra contro Napoleone, con più calore ancora dell'anno precedente. Fu deciso l'arruolamento non solo di 10 reclute su 1000, ma anche di 9 militi della riserva. Dappertutto si gettava l'anatema su Bonaparte e a Mosca non si parlava che della guerra imminente. Per la famiglia Rostov tutto l'interesse di questi preparativi di guerra si riassumeva solo in questo, che Nikolushka non voleva a nessun costo restare a Mosca e non aspettava se non la fine della licenza di Denisov per andarsene con lui al reggimento dopo le feste. L'imminente partenza non solo non gli impediva di divertirsi, ma anzi ve lo incitava. Egli passava la maggior parte del suo tempo fuori di casa, a pranzi, serate e balli. Il terzo giorno delle feste di Natale si svolge a casa Rostov il pranzo d'addio, a cui sono presenti tra gli altri Dolokhov e Denisov. E Natasha in questa occasione informa Nikolai che Dolokhov ha chiesto la mano di Sonia e che questa ha rifiutato. «Ma non poteva agire diversamente la mia Sonia», pensò Nikolai. «E per quanto la mamma l'abbia pregata, ha detto di no, e io so che se dice una cosa non cambia». «E la mamma l'ha pregata», disse Nikolai con rimprovero. «Sì», disse Natasha. «Sai, Nikolenka, non t'arrabbiare, ma io so che tu non la sposerai. Lo so, Dio sa perché, lo so di certo che tu non la sposerai». «Ma via, tu non ne sai nulla», disse Nikolai. «Ma bisogna che io le parli». «Com'è deliziosa quella Sonia», aggiunse sorridendo. «È una delizia, te la mando». E Natasha, dopo aver baciato il fratello, scappò via. Dopo un momento entrò Sonia, spaventata, sconvolta e con un'aria colpevole. Nikolai le si avvicinò e le baciò la mano. Era la prima volta dopo l'arrivo di lui che parlavano a quattro occhi e del loro amore. «Sofì», disse egli, dapprima timidamente e poi con sempre più ardire, «se voi volete rifiutare un partito non soltanto brillante e vantaggioso, ma è un uomo eccellente, un nobile cuore, è mio amico...» Sonia lo interruppe. «Ho già rifiutato», disse in fretta. «Se voi rifiutate per me, temo che in me...» Sonia lo interruppe di nuovo. Essa lo guardò con uno sguardo implorante e atterrito. «Nicolà, non mi dite questo», proferì. «No, debbo dirlo. Se voi lo rifiutate per me, io debbo dirvi tutta la verità. Io vi amo, credo, più di tutti. Questo mi basta», disse Sonia facendosi di fuoco. «No, io mi sono innamorato e mi innamorerò mille volte, sebbene questo sentimento di amicizia, di fiducia, di amore non lo senta per nessuna come per voi. E poi io sono giovane. Maman non lo vuole. E, insomma, non prometto nulla. E vi prego di riflettere alla proposta di Dolokhov», disse egli, pronunziando con sforzo il nome del suo amico. «Non mi dite questo. Io non voglio nulla. Io vi amo come un fratello e vi amerò sempre così e non ho bisogno d'altro. Voi siete un angelo. Io non vi merito, ma la mia unica paura è di ingannarvi». E Nikolai le baciò la mano un'altra volta. E così siamo arrivati alla fine della prima parte del libro secondo. Questo si conclude raccontando come Dolokhov, amareggiato per il rifiuto di Sonia, sfida al gioco Nikolai e gli vince 43.000 rubli, che Rostov non è in grado di pagare subito. E questo debito lo getta nella disperazione. Per cui, divorato dal rimorso e dalla vergogna, riesce comunque a chiedere i soldi al padre. Intanto, in un'altra stanza della casa, Natasha confessa alla madre di aver ricevuto anche lei una proposta di matrimonio da parte di Denisov. E anche questa viene rifiutata. Dopo la partenza di Denisov, Rostov, aspettando il denaro che il vecchio conte non poté mettere subito insieme, passò ancora 15 giorni a Mosca, senza uscire di casa, quasi sempre nella stanza delle signorine. Sonia era con lui più tenera e più devota di prima. Pareva volesse mostrargli che la sua perdita al gioco era stata un atto eroico per il quale ella lo amava ancora di più, ma ora Nikolai si riteneva indegno di lei. Egli riempì gli albi delle fanciulle di versi e di musica, e senza salutare nessuna delle sue conoscenze, avendo finalmente mandato tutti i 43.000 rubli a Dolokhov e ritirato una ricevuta, alla fine di novembre andò a raggiungere il suo reggimento, che già era in Polonia. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni. A cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.